Buonasera, siamo qui in diretta con Active Waste Radio direttamente dal Ponte Rocca d'Arpino. Sono le 21:20. Stiamo aspettando che i gruppi iniziano a suonare. Io ci tengo a salutare innanzitutto i ragazzi che sono qui intorno a me. Io sono Joe, c'è cioè Marco, Emilio, Andrea, Manuel, Mattia, Giampaolo, eccetera, eccetera, eccetera. C'è anche Guidolf, il nostro fido ascoltatore. La serata sta cominciando a crescere, sta cominciando a nascere. Aspettiamo che il progetto Suonatori dei Cari comincerà a suonare, il gruppo che poi intanto fa parte. Lo vogliamo dire, Gio? Intanto buonasera a tutti gli ascoltatori e coloro che ascolteranno il podcast. Diciamo che ne abbiamo già approfittato perché abbiamo cominciato a fare le prove, a fare le proprie foto con il nostro fotografo Mattia D'Agostini. E ringraziamolo ovviamente. Disponibilissimo. E vogliamo provare Michele, questa sera. Michele fa le pace, io commenterei questa cosa qua. In effetti va bene, ma diciamo che questa sera vorremmo provare qualcosa di alternativo dal solito. Vorremmo alternare la musica che mandiamo a noi che commentiamo quello che abbiamo appena sentito. Soprattutto perché siamo quattro persone e abbiamo gusti completamente differenti l'uno dall'altro. Almeno capiremo quali le nostre impressioni. Tra l'altro Marco, perdonami, ma io ho avuto questa piccola discrezione. Intanto abbiamo il chitarrista The Wait Hell in Vain che ci verrà a fare un saluto, ovviamente. Il bello della diretta, sì. Le sensazioni riguardo a questo Ponte Rock? Allora no, la situazione è bellissima perché comunque c'è uno spirito molto caloroso e sul palco va da paura. Quindi è veramente da paura, una serata spettacolare. Si preannuncia allora, ottimo. Piccola domanda, prossime date, facciamo un po' di audio, facciamo una bella pubblicità fatta così. Allora, per le prossime date, a dir la verità, stiamo ancora decidendo. Probabilmente il 10 ottobre saremo a Stazione Birra. Per le altre ancora è indecisione, ma seguiteci sul nostro contatto Facebook Wait Hell in Pain o comunque sul nostro sito waithellinpain.com che aprirà a breve. Benissimo. Quindi sarà pubblicizzato tutto. Noi ovviamente continueremo a mandare la loro roba durante le nostre varie dirette. Io ringrazio. Infatti stavamo ragionando prima anche con Miguel del fatto di poter trasmettere musica alternativa, musica di gruppi emergenti, anche per quanto riguarda tutti voi, se voi volete. Se avete un gruppo e suonate, mandateci una demo, mandateci il materiale, perché loro hanno fatto così con noi. E quindi ci siamo adesso trovati molto bene e li ringraziamo molto. Va benissimo, allora adesso lasciamo un minutino di questa specie di G7 preconcerto, noi facciamo un attimo il punto della situazione. Io ringrazio Wait Hell in Pain e ci sentiamo a brevissimo. Ah sì, io Ludovico Luce, il chitarrista dei Whip. Ciao a tutti dei Whip. Grazie mille, a tra poco. Drone in the sea, like an L.I.D. I'm a Prova. Una volta in diretta. Mi sentite? Stanno finendo di fare il sound check. Buonasera a tutti. Eccoli. Buonasera, un applauso adesso ci starebbe bene. Grandi, grandissimo. Allora, innanzitutto vi voglio ringraziare per esserci in questo momento, perché l'inizio non tutti se lo godono, e l'inizio a volte è il momento più bello della serata, ma ci sono anche momenti molto molto molto molto interessanti più avanti. Io direi di fare dei ringraziamenti preliminari, ovviamente all'Associazione Culturale Prossimamente, che si autofinanzia per svolgere questa bellissima serata attraverso ovviamente l'acquisto delle birre. Se acquistate le birre non solo vi divertite, non solo bevete in compagnia, ma soprattutto date un piccolo contributo per eventi futuri, possibili eventi futuri. Inoltre c'è anche la possibilità di un tesseramento, che ovviamente influenzerà ovviamente la spesa poi sul totale di una serata bellissima come questa, come potrebbe essere questa, come potrebbe essere anche anni a venire. Io lo spero ovviamente. Ringrazio inoltre gli stand che sono qui sulla destra, sulla mia destra, sulla mia sinistra, lì giù in fondo, dove c'è la possibilità anche di vincere un bonghetto. Davide? C'è Davide, potete acquistare un biglietto al prezzo di un euro se non sbaglio, e se indovinerete ovviamente l'altezza del bonchetto vincerete un bonchetto. Inoltre c'è anche lo stand dell'Unicef e dell'Onlus qui a destra, ragazzi, molto importante. Per il resto io direi che si può cominciare, partiamo giusto adesso con un meraviglioso gruppo locale, partiamo con i PSP, Progetto Suonatori Precari, che salgono adesso su questo palco. E lui è il leader, possiamo dire così? 27, perché io voglio ricordare, Marco, che abbiamo detto anche tante volte. Dai una piccola presentazione del gruppo, perché siete nati, come siete nati e perché avete deciso di vestirvi. Invece no, sono le 21:27. È diretta. Stanno intervistando il cantante di PSP, che sarebbe in pratica il gruppo indigeno del luogo, disse Totò. Certo. Lasciamo un secondo l'intervista e torneremo a breve. Siccome c'erano un po' di scazzi e comunque finivamo sempre a fare cose un po' più demenziali, a un certo punto ho detto: ragazzi, mettiamoci insieme e facciamo i pezzi nostri demenziali. Non, però il termine demenziale a volte in Italia suona un po' come stupido, non è proprio così. Insomma, facciamo per divertirci. Poi, per colpa mia che sono in giro nel mondo, suoniamo solo 2 mesi l'anno, però facendo una canzone l'anno, tra 10 anni esce l'album. Benissimo, benissimo. Un forte applauso per i PSP! Quell'altro giorno mentre ero in cantina, dopo la prima bottiglia, già non ci stava a capire più niente, sembravo un deficiente. Non riuscivo più ad alzarmi all'impiedi, a formulare pensieri. L'altro giorno mentre ero in cantina, dopo la prima bottiglia, già non ci stava a capire più niente, sembravo un deficiente. E allora sapete cosa? Sapete cosa ho fatto? Niente! E l'altro giorno era all'ufficio postale, dopo un'ora di coda, faceva caldo come a Ferragosto, sembrava un pollo arrosto. C'era anche una signora anziana che voleva fregarmi il posto. L'altro giorno era all'ufficio postale, dopo un'ora di coda, faceva caldo come a Ferragosto, sembrava un pollo arrosto. Arrivato allo sportello non trovavo più la mia bolletta, l'avevo dimenticata addirittura dentro la cassetta. sapete cosa ho fatto? Niente! E l'altro giorno ero seduto in un prato, in mezzo a dei fiori. A un certo punto è arrivato un ragazzo, mi ha raccolto un bel manto. Poi però si è avvicinato e ha iniziato a guardarmi. E l'altro giorno ero seduto in un prato, in mezzo a dei fiori. A un certo punto è arrivato un ragazzo, mi ha raccolto un bel manto. Poi però si è avvicinato, negli occhi mi ha guardato. Mi fa, sei proprio carino, non è che sei già fidanzato. Ehi, non ho fatto niente. Ehi, non faccio mai niente. Non sono buono a niente. Sono nato per niente. Non ho fatto niente. Sono nato per niente. Non sono buono a niente. Non faccio mai niente e non ho fatto niente. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. E non hai fatto niente. Non hai fatto niente. Non hai fatto niente. Non hai fatto niente. Non ho fatto niente, non faccio niente, beh, sono nato per niente. E non ho fatto niente, non ho fatto niente, sono nato per niente. Non faccio niente, beh, non faccio niente. No, no, no, no. Non ho fatto niente, non faccio niente, beh, sono nato per niente. E non ho fatto niente, e non ho fatto niente, sono nato per niente. Non faccio niente. Benvenuti a Ponte Rock, che anno siamo? 2013, settima edizione. Bellissimo questo pezzo d'esordio dei SP, cioè entusiasmati tutti quanti. Io sinceramente ero un gruppo che non conoscevo, non li ho mai sentiti dal vivo, però sono bravi ragazzi, diciamo la verità. Bah, diciamo la verità, per quanto mi riguarda sì, mi piacciono le sonorità, come si dice in gergo, ma non ho capito molto il testo. Vabbè, diciamo. Se non altro c'è il fatto che comunque fanno pezzi loro e sì, musica, sì, musica è loro, completamente. Quello è già una cosa abbastanza encomiabile. Allora sì, io, qualora dovesse esserci qualcuno che ci sta ascoltando, è una cosa che va anche a nostro discapito, però dico ragazzi, lasciate perdere di ascoltare la live e venite qui al Ponte Rock, perché c'è un sacco di gente, ampio parcheggio, non direi, però perché la cortesia prima passa da noi. Uno, Gianluca Aldino. Il prossimo pezzo, la musica, sì. Questa qui è Scale, in teoria dovrebbe parlare anche delle scale gerarchiche che si incontrano nella vita. Un po' tutti siamo costretti a farle, purtroppo. Purtroppo, qual è? Dall'istruzione a tutto il resto. Voglio un ritardo sociale con un orario mondiale. Voglio un ritardo mondiale con un orario sociale. Non voglio fare tardi nelle vite degli altri. Ho voglia di far presto nel capire me stesso. Ho voglia di scoprire, di fantasticare, ma mi sono perso a fare le scale. Scale mediatiche, scale patetiche, scale metafisiche. Oh, oh, oh. Scale cromatiche, scale daltoniche, scale parametriche. E io mi sento un salame. Compra la marca da pollo e io mi sento un pollo. non voglio fare tardi nelle vite degli altri. Ho voglia di far presto per capire me stesso. Ho voglia di scoprire chi fantastica scicare, ma mi sono perso a fare le scale. Scale mediatiche, scale patetiche, scale metafisiche. Oh oh oh. Scale cromatiche, scale dinamiche, scale parametriche. Sai, le scale le farai, le scale come mai, le scale perché mai, le scale lo sai, le scale le farai, mi sono perso a fare le scale. Adesso il nostro Ricky Rock. Possiamo anche evitare tipo ogni canzone cercare il commento, effetti, va bene così, da riempimento. Dobbiamo anche dire soltanto che comunque sì, sono forti, sono simpatici, hanno belle parrucche e continuano così. Dai. No, la cosa bella è che comunque l'ironia è una cosa importante. Ridere, ma soprattutto ridere di sé non è semplice e loro sono capaci. Li ringraziamo. Ringraziamo anche il Ponte Rock che ci ha dato la possibilità di stare qui in questo momento a fare la diretta. Ringraziamo Tanzi Bar di Maggio, Fabio Danzitto, che ci ha donato il trespolo del microfono. Emilio, non guardarmi così, perché questa cosa ci ha salvato la vita questa sera. Lasciamo il pezzo, il prossimo pezzo mi sembra oltremodo opportuno. Rocchettara, ti sei fatta ingannare, sei andata in discoteca per andare a ballare. Adesso che hai scoperto il gusto del peccato, cambia il tuo profilo, cambia pure il tuo stato. Disco, disco, reggae, andiamo tutti fuori le gea. Disco, disco, reggae, andiamo tutti fuori le gea. Hai già dimenticato la tua vecchia chitarra, ormai ci stai dentro, sei una tamarra. Davanti allo specchio ti trucchi parecchio, metti due tacchi per far quattro salti. Disco, disco, reggae, andiamo tutti fuori le gea. Disco, disco, reggae, andiamo tutti fuori le gea. Sabato sera sei pure in lista, non vedi l'ora d'essere a centro pista. Tutti quanti sotto cassa, senti come bomba, madonna che bombola. Disco, disco, reggae, andiamo tutti fuori le gea. Disco, disco, reggae, andiamo tutti fuori. to, I need to, I want to, I need to, for I love you, raising home, I love you, I want to, I need to, I love you, la disco bussò, raising home, I love you, alle porte del reggae. My name is Struzzo, e sono Merluzzo, cause his name is Struzzo, e la disco bussò, alle porte del reggae. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. La disco, disco, disco, disco, disco, disco, reggae. Andiamo tutti fuori le girl. Disco, disco, reggae. Andiamo tutti fuori le girl. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na. Rock and roll, ragazzi, venite sotto il palco, ci date tanto calore. Forse c'è anche qualche ragazza disponibile, non lo so, vabbè. Allora, la prossima canzone la presento io. È una storia personale, non né di alcolismo né di droga, comunque. È una storia d'amore, semplicemente questo. Vai, ragazzi. Lei non verrà, io mi fermo, resto qua. Lei non verrà, io mi arresto, alto là. Yamabodà, Yamabodà, scheda bianca, e voilà, i politici qua, tutti quanti, qua, qua, da qua. Lei non verrà perché non è innamorata di me. Amore non vuoi, se il mio amore non vuoi, dammi un bacio solo se vuoi, se non vivo di te, se non vivo di te, io mi bevo solo il caffè. Oh! Se non faccio l'amore mi si scoppia il motore. Giocare al dottore. Lei non verrà perché non è innamorata di me. Signori, di buonasera a tutti, grazie. Grazie per essere venuti a Ponte Rock. Ci tenevo a ricordare che Ponte Rock è una manifestazione autogestita, quindi ci sono tante persone volontarie. Alcune le vedete dietro gli stand, lavorano a gratis. Aspetta, ripetiamo, a gratis! E non abbiamo finanziamenti pubblici, vorrei ricordare. Siamo apolitici, siamo laici. Ci sostenete voi, ci sostenete voi. Esatto, con le magliette, con le birre, guidate poco. E noi siamo i PSP, siamo onorati anche perché giochiamo in casa, siamo tutti di Arpino. Da ringraziare anche l'associazione culturale, sempre tutti volontari, prossimamente, che da 2 anni partecipa all'organizzazione di questo evento. Detto questo, vi presento i Pagliacci Senza Naso che sono su questo palco. Partiamo dalla batteria, Riccardo Re 88, detto anche il timido ubriaco. Alla mia destra col parruccone, Lorenzo Bianchi, detto Buffo, e anche Cobra. No, quello presentalo tu. Questo, aspetta, come ti chiami? No, aspetta, non mi ricordo. Fabrizio Fortuna la chitarrona. Allora, come disse quella, il biondo platino. Aspetta, una presentazione speciale. Da notare le scarpe da metallaro New Rock. Ma c'è la fiesa una cossa, porco giù, se no. Vabbè, sta a suonare. Da nota il capezzolo turgido perennemente. Puoi girarti per cortesia? Com'è quella azienda che fa i salumi? Se lo vede stasera proprio. Al basso e al parrucchino, Daniele Ricci! Sti applausi comunque li hai presi per quel coso là. Stuntman, spettacolo man, uomo multifunzione, cantante, non lo so, di pasticcere, no, questa era falsa. Simone Arbanti! Detto anche al centro, Ricky Rock! Che veniamo tutti insieme. Vieni con me. Ok. Vieni con me. Allora adesso non vengo più io. Io che sono venuto, sono stato molto prevenuto. Lei che non è venuta, adesso è proprio molto dispiaciuta. Perché lei non è venuta, perché lei non è venuta, mentre io sono venuto. Perché lei non è venuta, io sono venuto. Perché lei non è venuta? Mentre io sono venuto. Perché lei non è venuta? Mentre io sono venuto. Perché lei non è venuta? Mentre io sono venuto. Lei non verrà. Lei non verrà. Lei non verrà. Lei non verrà. Lei non verrà. Grazie amici. Ok, vabbè. Bene. La potremmo presentare tutti. Dobbiamo dire che comunque sono stati forti. Non sapevamo che fossero tutti di Arpino. Sono stati simpatici, assolutamente simpatici. Sono tutti di Arpino, quindi penso che dentro ci sia anche qualche organizzatore. Sì, mi hanno detto di sì, anche Cialone, il nostro caro Cialone. Cialone, un'intervista per il nostro pubblico? No, non la vuole dare, non la vuole rilasciare. E va bene. E allora, sembra che loro abbiano finito. Ah no, un ultimo brano e dopo passeremo agli ospiti successivi. Se volete parlare con noi, comunque, ok ragazzi, queste sbornie dimenticabili. Appena scritta questa, sentite la poesia. Seduto a tavolino, ma in realtà sto sedendo su una sedia. Ripenso a ieri sera, ma in realtà non ricordo una sega. Dove sono finite le chiavi della macchina? Ma la domanda corretta è: dov'è la macchina? Controllo il cellulare, ma porca ma... Quanti messaggi porno che ho mandato a mia zia. Sono solo sborne dimenticabili, giuro che non lo faccio più. Sono solo sborne dimenticabili, non te lo ricordi anche tu. Vai buffo! Ragazzi, clamoroso! Ho un ospite non speciale, di più. Buffo! Ho qui presente il frontman del gruppo famosissimo dei Doors. Allora, io adesso improvviso questa intervista sono anche un po' imbarazzato. Lei ovviamente, signor Jimmy, ascolta la nostra radio, potrebbe anche lasciarci un piccolo messaggio. Every day. Quindi lei... This is Jim Morrison, you're listening to Radio Collective Waste. Grazie Jimmy, grazie. Nudo per la casa, ma la domanda corretta è: di chi è la casa? Avevo una ragazza, ma... Controllo nel mio letto, trovo mia zia. Sono solo sborne dimenticabili, giuro che non lo faccio più. Sono solo sborne dimenticabili, non te lo ricordi anche tu. Vediamo se la sapete. Abbiamo appena cantato, ce la dovreste fare. Vai. È facilissimo. Il primo giro dice giuro che non lo faccio più. Il secondo non te lo ricordi anche tu. Accompagnateci, eh? Sono solo sbornie dimenticabili, giuro che non lo faccio più. Sono solo sbornie dimenticabili, non te lo ricordi anche tu. Solo voi, eh? Sono solo sborne dimenticabili, giuro che non lo faccio più. Sì, come no? Sono solo sborne dimenticabili, non te lo ricordi anche tu. Ci andrebbe un bella solo e mo ce lo metto. Vabbè dai, fallo mettere a qualcun altro. Lo so, sono una pippa, mettilo tu. No! Solo sbornie dimenticabili, giuro che vino no, vino rosso. Jäger va, Jäger va, Jäger basta. Badu vai, badu vai, badu vai sa. Jäger va, Jäger va, Jäger basta. Badu vai, badu vai, badu vai sa. Nastra giù, nastra giù, nastra azzurro. La però, la però, la però. Jägerma solo un po' di era. Dimenticabili. Giuro che non lo faccio più. Solo sbornie dimenticabili, non te lo ricordi anche tu. Yeah! Grazie ancora signori, voi siete la nostra benzina dopo il vino rosso. Ciao a tutti, ci vediamo, non lo so, ci vediamo sotto il palco. Siamo riusciti grazie. Ancora una volta a gasare ciao, il ragazzi, pubblico, devo dire, hanno coinvolto infatti hanno coinvolto molta gente e devo dire che sono riusciti a dimostrare quanto valgono. Sono stato davvero un gruppo d'apertura, seriamente un gruppo d'apertura, nel senso che vanno là e fanno divertire il pubblico per primi, quindi bravissimi sul serio. Anche dobbiamo notare la parte finale con tutti i tipi di alcolici che portano alla sbornia, noi siamo rimasti molto colpiti da la peroni. Ma guarda, anche Jäger basta, mi hanno detto dalla regia. E va bene, e allora mentre aspettiamo, mi dicono dalla regia che dovremmo avere un Joe? No, va bene, allora lasciamo lo spazio al prossimo gruppo. Wait Hell in Pain, che saliranno fra poco i tempi tecnici per aggiustare un attimo gli strumenti. A proposito di tempi tecnici, vorrei ringraziare anche il service di questa sera. Un applauso. Forte, forte! E soprattutto, ragazzi, voi laggiù, cos'è? Vendono qualcosa di speciale, qualcosa di importante? Dai, avvicinatevi al palco. Dai, un passo avanti, almeno uno alla volta. Niente? Va bene. Ok, allora, dicevo, i Wait Hell in Pain sono un gruppo heavy rock metal, giusto? Mi confermate questa cosa? Perfetto. Ok, e è una musica sempre in evoluzione, perché sono partiti da un hard rock classico, se non mi sbaglio, e sono arrivati ad oggi con una musica che presto ascolterete. È di quest'anno il demo che hanno fatto, dove autoprodotto dalla band soprattutto, che si chiama Wait Hell in Pain, scusate, in cui sono raccolti tre inediti, ovviamente, scritti da loro. I componenti sono: alla voce Kate Sale, alla chitarra Stefano Preiano, Ludovico Luce all'altra chitarra, Damir Rapone al basso e Stefano Rossi alla batteria. Un applauso. Dai, incoraggiatevi, è la prima volta che faccio il presentatore. Che cazzo avete fatto? Grazie. Qui è una zona calda, ragazzi. Io vi consiglio di avvicinarvi, anche perché stasera è un po' l'umido, un po'. Dai, avvicinatevi un po', dai. Volete dire qualcosa? O partite direttamente? Ditemi quando siete pronti. Allora, ricordo ovviamente... Ah, una cosa molto importante. Siamo in streaming con la radio laggiù in fondo, che si chiama Collective Waste Radio. E ovviamente... Grandi! Dai, un applauso anche a loro! Scaldatevi le mani, se non vi volete scaldare almeno qui davanti a ballare, a cantare, almeno scaldate le mani. E domani mattina, credo, intorno alla mattinata, usciranno i podcast dove potrete riascoltare, insomma, la serata. Siamo quasi arrivati all'inizio del secondo spettacolo. Io ci hanno rovinato, Marco, cosa stranissima. Qualcuno si è ricordato di noi, ha detto che esistiamo. Bene, bene, bei momenti. Anzi, io ho avanzato una sfida, Emilio, a Manuel. Ho detto, ascoltiamo due pezzi del prossimo gruppo e poi, sinceramente, vi devi dare un giudizio. Manuel, per cortesia, confermi questa cosa? Guarda, io confermo questa cosa, non mi dispiace per niente farlo, però non voglio che tutta la serata prosegua con tipo un esame delle band che passano. Sinceramente non è bello, dai, ascoltiamoli, se sono belli sono belli, se sono brutti non fa niente. A me piace mettermi in difficoltà, ecco perché. Guarda, questo l'avevamo capito naturalmente, però lasciamo stare. Ecco, lasciamo la parola al presentatore. Grande Davide! Potete acquistare un biglietto al costo di un euro per vincere un bonchetto. Basta indovinare l'altezza e insomma. Siamo quasi pronti, giusto? Benissimo. Un altro minutino. Che dire, io ringrazio il comune di Arpino per la possibilità che ci ha dato la possibilità di fare questa meravigliosa manifestazione, perché Arpino ha il germe del rock dentro, ragazzi. Facciamo un applauso al rock, dai, più forte anche voi laggiù, un applauso al rock. Vi lascio ai With Hell in Pain. Un applauso. Sa. Don't leave me alone by myself. Wow, siete bellissimi. Buonasera Arpino, ci siete o non ci siete? Se ci siete fatemi sentire un bell'urlo. Più forte. Se la manifestazione si chiama Ponte Rock, voglio sentire un bell'urlo rock. Bravissimi. Molto meglio. Avete appena ascoltato Go Away. La prossima è Sleepless, Wail and in Pain da Roma. Troubles, nobody seems to notice I feel pain. What do you get up on my own again? Every day I lose my mind, always searching for the light I can find inside me. I keep on the fight for saving all my dreams from the night. Throw myself away, I'll leave dangling in space. Tonight I feel out of place. Here I'm on the rubble, nobody seems to notice I'm missing. Where do you get up? Oh my God, without hope. Ci dispiace per il gruppo che sta suonando adesso, però io adesso ho una celebrità e quindi è un onore per me parlare con Riccardo Rea, che dei due è il batterista del BSB. Come è andata la serata? Ma tutto sommato abbastanza male, dati gli errori sul palco. Allora, facciamo così: in quanto musicista abbastanza deluso, in quanto organizzatore del festival abbastanza soddisfatto. È bellissimo. La prima cosa che abbiamo detto, vi abbiamo ringraziato innanzitutto per quello che avete organizzato, in più per la possibilità che ci avete dato di stare qui e fare la diretta. Prossime date per quanto riguarda i PSB, ci sono, non ci sono? Adesso Ricca, perdonami, ma io devo, il giornalista che è in me riesce, e quindi te le faccio queste domande. Allora, prossime date PSP non credo ci saranno, perché l'altro Riccardo parte per l'Australia, il Riccardo che sarei io parte per Bologna, Simone va a Roma, e quindi non ci vedremo per 6, 7, 8 mesi, quindi assolutamente no. Allora, qualora dovessero esserci altre date di PSP, ovviamente Collective Waste Radio sarà presentissima, non presente, e qualora... Lei, buon uomo, avaglierà questo discorso, perché con la SIAE lei sa che è piuttosto complesso. Noi manderemo. Che cosa? Bravo. Manderemo il vostro live con molto, molto, molto piacere e tantissimo affetto. Ti ringrazio e vi ringrazio. Grazie a voi e buona serata. Altrettanto. Non mangiamo le persone. Tutti qua sotto, ragazzi, vogliamo vedervi scatenati. Supermassive Black Gold. Ultimate and Supercool. Super Massive Black Gold. Super Massive Black Gold. Super Massive Black Gold. Grazie. Gli applausi si sprecano, i commenti anche riguardo ovviamente la musica e non riguardo altro. Io le manette, Andrea, per cortesia, oramai ti ho citato quindi non puoi scappare. Noi abbiamo ovviamente un'altra celebrità, e cioè gruppo conosciutissimo, il Leon de Quadra, una cover band dei Subsonica. Faccio una premessa: i Subsonica a me non piacciono, però è un gruppo che io vado ad ascoltare da sempre con molto piacere, perché sono bravissimi. Andrea, faccio un saluto velocemente. Ciao ragazzi, buonasera a tutti. Andrea, ma lei è un frontman. Cioè, ma se non lo sai tu, che cosa devi dire? Vuoi che lo sappia io? Dica. Mi hai preso alla sprovvista, che cosa dovevo dire? Ma non è vero, ce la faccio come il culo, te l'ho anche detto. Guarda che a breve ti intervisto. Eravamo impegnati nei radar. Ascoltare la musica, ovviamente. Cioè, il bassista è particolarmente bravo. She's getting out of mind. I'm trying to resist you, but my mind's going round the bend. I swear I try to return to my senses, but my dreams are persecuted from your eyes. I know the day to come and say I've been praying cold. I let my tail get carried away. I wish to taste the forbidden fruit. It's out of control. Been so upset deep inside. Too many thoughts crossing my mind. My need to taste that forbidden fruit. Obscure in my mind. I've never been so upset deep inside. I've never been untrue to see. A secret will lead in your sensation that I cannot defend. I'm trying to resist you, but I hope and fear it will never end. I swear I try to return to my senses, but my dreams are pretty clear from your eyes. I beg the day to come and step up in prayer, cause I let myself get carried away. Ciao e te ne vai. Ciao. Ciao, buonasera a tutti. Oh, tanto ci voleva. Forbidden fruit. Serafino, questo è l'ultimo pezzo. Ci siete ancora? Non vi sento! Corna in su e urlo rock! Forza Alpino! Ne approfitto per presentarvi la band. Alla batteria, Stefano Rossi! Al basso, Damir Rapone! Alla chitarra, Stefano Praiano! All'altra chitarra, Ludovico Luce! Adesso voglio un mega applauso! La nostra frontwoman! La nostra voce! La bellissima Kate Sale! Grazie! Ricordateci, Wait and in Pain da Roma! Il nostro sito è quasi pronto, www.waitandinpain.com. Ci trovate su Facebook, www.facebook.com/whipthebands. Questa è Delirium! Sulle mani! So one is no pain. I'm making a runner club. I can't say why. I think I'm rolling. I see I'm rolling, rolling, rolling. Your name. I join in a call. I'm burning flame. Everything's around the past. I can see it around the voice for screaming. Everything is upside down. I can see it around, there's no way out. Hey, hey. These fighters rapping me, can find the key, they try to catch me. I'm flying around a hole, I am a bone, sweating the ground. Destiny is found this way, I'm thinking my plan. I'm sorry again, you're right, I can't forget. Everything's around the past, I can see it around the void for screaming. Everything is upside down, I can see it around, there's no way out. Yeah. Everything's around the past, I can see it around the final screaming. Everything is upside down, I can see it around, there's no way out. Yeah. Grazie, grazie Alpino, grazie all'organizzazione di Ponte Rock, grazie a tutti. Grazie infinite. Ed eccoci ancora una volta live dalla fine del primo concerto. Dobbiamo dire che sono stati strepitosi e spero di poter passare qualcosa di loro in radio prossimamente. Mentre niente, è ritornato il presentatore, è un po' più bravo di noi. Approfitto di questo tempo tecnico per ringraziare ancora e farvi notare che siamo in radio, in streaming con la Collective Waste Radio, ragazzi, che sono là. Un applauso glielo vogliamo farci sentire, dai, più forte. Dai, il rock, ragazzi, il rock. Va bene, va bene. Allora, adesso si sale un attimino di livello e si passa a un gruppo che è in tour per promuovere il loro disco, che si chiama Decadendo su un materasso sporco. Ragazzi, loro sono Matteo Gabbianelli alla voce, Luca Mendola basso e voce, Donatello Giorgi chitarra e voce, Simone Bravi batteria e voce. Ragazzi, un forte applauso, forte. Ai cazzo! Diamo un attimo il tempo. Stanno per iniziare il concerto di cazzo, cuzzo, che dir si voglia. Io ringrazio comunque gli organizzatori del Ponte Rock perché per la seconda volta ci hanno nominato. Per me è bellissimo questa cosa, Emilio, perché lei sa che... Saluta Luigi. Salutiamo Luigi e Claudia, ovviamente. Sei proprio un fratello in grado. Cioè, che lei saluta solamente Luigi e di sua sorella si dimentica gratuitamente. Salutiamo anche Gabriella a sto punto e poi adesso facciamo tutta l'allegra famiglia. Benissimo. Lasciamo la parola a Cuzzo e ci sentiamo alla fine del prossimo pezzo. Un passo avanti, bravi. Ragazzi, la serata si scalda. I cazzo sono un gruppo che viene da Roma e ci accompagneranno per un tempo. Dopodiché ci sarà un altro gruppo, quindi non è finita qui la serata, ragazzi, quindi state belli arzilli. Ma io vorrei... faccio salire qualcuno dell'associazione prossimamente. C'è Ettore, posso far salire Ettore? Dov'è Ettore? Ecco che sale Ettore. Ciao a tutti ragazzi, grazie per essere così numerosi. Io vorrei solo ricordare, mentre aspettiamo il cambio palco, come è nato Ponte Rock, ovvero come un gioco tra ragazzi di quartiere. Poi ci abbiamo preso la mano ed eccoci qua alla settima edizione. Ora invece vorrei farvi parlare con Andrea Fiorini, il presidente dell'associazione, che dovrebbe essere qui. Andrea? Chiamate Andrea? Eccolo. Va bene, allora io non sarei voluto salire, infatti un applauso. Allora posso dire due parole che sono importanti, perché ci sono dei ragazzi che stanno lavorando da 3 mesi, anche di più per quanto riguarda l'associazione, e oggi abbiamo risolto una marea di problemi anche grazie all'aiuto di qualcuno del comune, di qualche amico, insomma si è fatto un po' rete, un po' sistema, e siamo riusciti a realizzare questa serata. Io sinceramente tengo a ringraziare questi ragazzi perché loro penso che percepiscono ma non capiscono appieno quello che creano in serate come queste. Siete tanti, molti di voi non sono d'Arpino, quindi questa è una cosa bellissima, e io sinceramente non riesco a dare un'espressione del lavoro che c'è dietro, quindi l'unica cosa che vi posso chiedere è divertitevi, bevete, fate quello che volete, insomma passate la serata in compagnia e divertitevi, perché noi questo è quello che vogliamo. Sicuramente non è il nostro obiettivo né lucrare né niente, vogliamo solo arrivare a farvi divertire. Grazie e spero che non debba dire più niente. Ragazzi, se facciamo pressione durante la serata sull'associazione è semplicemente perché l'associazione prossimamente, che ci ha adottato da qualche anno, ci ha permesso di essere più forti, nel senso che prima eravamo pochi ragazzi con diciamo anche i mezzi giusti, ma pochi. Invece tramite l'associazione, che poi ha adottato la manifestazione, ora siamo tanti, abbiamo più forza, abbiamo la possibilità di ospitarvi tutti qui al Parco San Germano. Quindi niente, io ripasso la parola a Stefano e se la vede lui. Ciao ragazzi. Grazie, grazie a tutti questi ragazzi. Io direi un applauso di incoraggiamento è dovere, ragazzi. Un applauso più forte, più forte. Anche giù in fondo, anche giù in fondo. Perché il rock non è morto ad Arpino, ragazzi. Non è morto. Aspettiamo ancora un momento. Ricordo che un ringraziamento va agli stand che sono qui, che ci allietano con le luci, con gli oggetti in vendita che sono veramente belli. Ricordo anche che c'è lo stand dell'Unicef giù, lo stand verde tra i due bianchi, se non mi sbaglio. Ricordo anche che ci sono dei ragazzi che attraverso il costo di un euro, di un biglietto, c'è la possibilità di vincere un bonchetto. Basta indovinare semplicemente l'altezza e si vince il bonchetto. Poi ricordo che una cosa che ho dimenticato prima, per i Wait Hell in Pain c'è la demo che è in vendita, anche con magliette, vendita della demo e magliette, che credo siano da quella parte, giusto? Perfetto, lì dove c'è la ragazza che alza la mano c'è la possibilità di comprare magliette e demo. Siamo quasi pronti, direi. Benissimo. Aspettiamo un attimo i tempi tecnici. A posto? Appena poi donate subito la chitarra. Dov'è la cassa pure? Ricordo, loro sono un gruppo romano. Matteo Gabbianelli alla voce, Luca Mendola a basso voce, Donatello Giorgi chitarra voce, Simone Bravi batteria voce. E sono in tour 2013 per promuovere il loro nuovo disco Decadendo su un materasso sporco. Loro sono i Cazzo e si esibiranno fra poco. Hola. Su. I Cazzo. La merda della maiala degli stronzoli nel culo del le poche pien di fiscioli con gli stronzoli escan dalle poppe dei budelli dei vitelli con le cosce della sposa che gli sorte fra le cosce troppi e sei dentro i castro troppi cazzi dentro il culo che gli spuntan dalle cosce che gli tornan dalle gambe con la mamma nel pompino della nonna che gli schianta dal suo corpo e gli leccano la schiena, poi gli sputa le coglioni e gli lecca il croppone con schianta tasta tra le zolle e si striscia tra mezza l'erba che la merda della maiala degli stronzoli nel culo le poppe viene difficile dalle poppe dei budelli, dei vitelli, con le cosce della sposa che gli corre fra le cosce, troppo troppi e sede dentro il castro, troppi cazzo. Ciò che voglio da questo concerto è cantare molto bene. Cercherò di cantare bene perché voglio che capiate le melodie delle canzoni. E forse se capite le melodie, allora capite anche le canzoni. E allora siamo tutti quanti contenti e la vita ci sorriderà, sorriderà a noi, ma anche un po' a voi. E staremo tutti sorridenti, tutti quanti rivolti al cielo! Rivolti al cielo! Cercherò di non prendere storte, come è successo all'altro concerto. Mi sono fatto molto male, ho bestemmiato interiormente, però sai va bene così, e se alla fine mi romperò una gamba andrà bene lo stesso, perché l'avrò fatto per l'amore tra i popoli! Tra i popoli! È solo l'amore! Ho comprato questi calzoni l'altro giorno perché ne avevo bisogno. Erano 5 anni che non compravo vestiti da nessuna parte. Mi vesto come vogliono i miei amici, perché son loro che mi prestano i vestiti. E alla fine io non glieli rendo e diventano i miei. Sono andato da H&M, avevano solo questi calzoni così. Devo ammettere che non mi piacciono, perché a me piacciono, pensa un po', scampanati. E invece adesso ce li hanno solo così, e allora tocca accontentarci. Ma io spero solo che voi resistiate per tutta quanta la nostra esibizione, perché quando uno dice delle cose un po' strane che la gente non si aspetta, il concerto è divertente, ma quando poi fai i pezzi tuoi si incominciano a rompere i coglioni, perché non conoscono le canzoni. E allora noi cercheremo di deliziarvi non solo con la musica ma anche con le figure. E questo concerto è un'esperienza per tutti quanti, grandi e piccini. Vogliamo solo che poi voi torniate a casa con un nostro CD. Ci diate i vostri soldi perché ce li meritiamo a priori. E anche se non ce li meritiamo, non ci frega un cazzo, perché l'importante è... Vorrei non avvelenarmi, vorrei riuscire a ignorarli, ma loro vogliono usarmi e allora vorrei annientarli. Buttiamo a mare i dirigenti, i segretari, i presidenti, con tutti quanti i parenti. Celerini, ma che cosa fate nelle strade? vorrei lasciarli parlare, vorrei poterli accettare, ma loro mi vogliono truffare e allora li devo stroncare. Ma quante belle elezioni e quante giuste istituzioni che stanno in mano a sti buffoni. Bruciamo tutto in mille roghi, noi siamo tanti, loro pochi, loro pochi, loro pochi. Cenerini, presto scioperate nelle strade, calpestiamo insieme quei buffati e i palazzi. Se come me, e cosa ci guadagno? Forfora e gastrite, forfora e gastrite. Sento nell'aria odore di morte, mi sputo addosso e strillo più forte. Siamo un mare di disperati, inesistenti ed umiliati. E allora perché continui a vivere? Forse perché hai ancora un po' di curiosità, ma proprio poco ormai. Ti sputo addosso e strillo più forte. Siamo un mare di disperati, inesistenti, schiacciati, umiliati. Sento nell'aria odore di morte. Ti sputo addosso e strillo più forte. Un mondo migliore, ma state bene nel vostro squallore. Grazie ragazzi, è veramente molto figo. Quanto sono bravi Guzzo, i cazzo o i che dir si voglia. Ero abbastanza scettico, eravamo abbastanza scettici, ma per default, non per cattiveria. Sono veramente veramente carini. Qua sta pieno di gente. Io consiglio a tutti quanti di ascoltare in maniera abbastanza approfondita il gruppo e il disco. Lasciamo la parola a loro perché stanno meritando. Indipendentemente da noi, è un applauso che fate a voi. Se voi fate bene, se no tutti a fanculo. Cioè. Cado a pezzi, oh, oh, oh. Ho cercato aiuto online. Ogni tanto vorrei prender fuoco, dissolvermi in aria. Tu credi nell'anima? Se il cielo fosse un blef, se ciò che vorrei non c'è, quando avrò tempo guarderò indietro, ora sprofondo in me. Una casa ce l'ho, grazie solo a mamma e papà, umilianti senza riscatto. I miei giorni e ancora non so se la colpa è mia, il caso governa il mondo. Se il cielo fosse un blef, se ciò che vorrei non c'è, quando avrò tempo guarderò indietro, ora sprofondo in me. Fosse un blef, se ciò che vorrei non c'è, quando avrò tempo guarderò indietro, ora sprofondo in me. Grazie, grazie a tutti, questo è il nostro brano. È il primo singolo del nostro disco di Cadendo su Materasso Sporco che abbiamo lì in vendita, eccetera, eccetera. Si chiama Lo Sanno Tutti. Mi fa, mi fa, mi fa, mi fa, mi fa schifo quello che penso, però non è giusto, non ha senso sperare di migliorare e vivere per farsi male. Io faccio quello che posso, di più proprio non si può, e basta piangersi addosso, in cielo esploderò. Lo so, lo sanno tutti, che fine farò. Ho seminato i frutti che raccoglierò. L'universo è mio. Vorrei esser cerebro leso, non capire un cazzo ed esser difeso. È certo che conviene avere qualcuno che ti vuol bene, però io mangio da solo e in testa ho sempre me. Ognuno ha il suo ruolo, il mio so già qual è. Lo so, lo sanno tutti, che fine farò. Ho seminato i frutti che raccoglierò. Salve, sono Dio. Lo sanno tutti che fine farò, ma voi siete pronti molto più di me. Salve. sono io. Ok, grazie. Però veramente, come diceva anche la ragazza prima, cioè venite un po', Kate sale, venite un po' più avanti, dai, per favore, riempiamo questi buchi. Ripeto, non lo dovete fare per noi, lo dovete fare per Punte Rock, perché se la gente sta pressata tutto quanto diventa più bello e Arpino si prende la nomea di posto che spacca il culo. Quindi dai, c'è già perché siete tanti. Quel buco là, per favore, a destra, vai, riempite, grazie. Un applauso a loro che si sono prestati a questa cosa insieme a voi, quindi un applauso a tutti, vai. E viva con questi applausi estemporanei che non hanno senso. Lì c'è un buco. Lì c'è un buco. Lo so, cioè appunto, devi finire proprio perché c'hai quella cosa in mano. Vai, venite, per favore, non ridete soltanto, venite anche avanti. Grazie, amica, ripeto, non è per noi, ma è per San Francesco. Allora noi abbiamo questo. No, questo è Babbo Natale, però non è San Francesco. Babbo Natale è appena assolto. Pensavo di fantasia comunque. È San Babbo Natale, allora. Facciamo di noi abbiamo questo brano che si chiama Questa Società, che usiamo sempre per fare una cosa molto alpitour, insomma da villaggio vacanze, in cui interagiamo con il nostro pubblico e quindi insomma dovete fare una cosa strana. Allora, di solito facciamo questa cosa che da sinistra va a destra e facciamo chi chi chi chi chi. Per favore Emiliano, puoi fargli sentire com'è sta storia? Ok, dovete fare una cosa del genere. Allora, per favore, partecipate a questa cosa, altrimenti Berlusconi credo che vincerà le prossime elezioni. Quindi, mettete le mani tutti così, per favore, dai. Già subito, guarda. Per favore, grazie. Anche chi è scettico, anche chi dice no, questi sono delle merde che io odio, non voglio mai più vedere di fronte a me. Sappi che la cosa è reciproca. Allora, per favore, dai, dovete fare questa cosa. Ve lo faccio vedere, non lo fate ancora, eh. Uno, due, tre. Chi? Questa si chiama la Fontanella del Gallo. Senza di questa cosa... Hanno preso le mani e detto ah, se devo fare questa cosa allora non lo faccio più. Dai, per favore, anche voi che ridete, lei con gli occhiali, grazie, con la borsa sulla mano sinistra, t'ho visto, lei con la maglietta dell'Inghilterra, vai, tu con la maglietta delle righe blu e qualcos'altro, ok? Per favore, dai, tu c'hai braccia concerte, almeno leva le braccia concerte e mettile sulla testa, così, bravo. No, tipo ostaggio, devono essere così, ok. Ecco, quasi fatto, allora, voi fate 1, 2, 3, poi fate chi? E noi cominciamo la canzone, tutto è molto più bello, ok? 1, 2, 3! Dico sempre le stesse cose, piango senza alcun motivo, bevo bevande dannose e mi chiedo perché son vivo, ma non sopporto più insiste con Gesù, chi mi chiede aiuto e crede che per me sia facile. Questa società ama la spontaneità, sono vero e sincero, presto farò una strage. Il regno della pace! Non sono felice, passo i giorni ad imprecare, vorrei leggere Nietzsche, cioè, non ho tempo neanche per pisciare. E sorrido ma non mi va, dico bello invece fa caga. Mostro entusiasmo per le tue idee noiose e stupide. Questa società premia la meschinità, fino a quando bestemmiando sparerò tutti quanti nemici e passanti. And I don't know the way, and I love me dead, the day we ordered up on the road. Should I know it away when I saw, when I got, when I turned, and I own to you. To my ship, would the air do be water, do the lobby wow. Questa società, amo tanto chiacchierà. Società, bla bla bla, chiacchierà, bla bla bla. Grazie. Thank you. non mi vuoi perché sorrido a tutte. Concedimi le tue labbra morbide, voglio soltanto te. Nient'altro importa, non scappar via. Marcia, ti prego aspettami. Ma ora non scherzo, infondimi un po' della tua magia, dammi la mano e senti il mio cuore che batte per te. Marcia, ti prego aspettami. Grazie. Chiudersi in casa quando il sole è lì, ti sta chiamando languida. Ma costante la vita fugge e non fai niente. Non sai esattamente cos'è, ma c'è qualcosa che marcisce dentro te. Pensi ancora di risalire su, il tempo passa e tu precipiti più giù. Necessiti di endorfine, comperi le patatine. Pensi troppo mattina e sera, ma spegni tutto, fatti una sega. Non sai esattamente cos'è, ma c'è qualcosa che marcisce dentro te. Pensi ancora di risalire su, il tempo passa e tu precipiti più giù. Esattamente cos'è, ma c'è qualcosa che marcisce dentro te. Pensi ancora di risalire su, il tempo passa e tu precipiti più giù, precipiti più giù, precipiti più giù, precipiti più giù. Cette chanson s'appelle Chanson de l'amour perdu. Ricordi, sbocciavano le viole, nostre parole non ci lasceranno mai, mai e poi mai. Vorrei dirti ora le stesse cose, ma come fa un presto, amore, ad appassire le rose, così per noi. L'amore che strappa i capelli è perduto ormai, non resta che qualche svogliata carezza e un po' di tenere. Troverai in mano quei fiori appassiti al sole di un aprile ormai lontano, li rimpiangerai. Ma sarà la prima che incontri per strada che tu coprirai d'oro per un bacio. Grazie, the song call, M. Eccito. Avrei voluto godere di più. Come sei bella che te te. Ah no, almeno pezzo, però non interessa. Io devo commentare questa cosa. Hanno fatto un pezzo di André. Hanno vinto tutta la vita questi ragazzi. Viva Guzzo. Barragazzo. Abbiamo fatto troppo di corsa su quei sedili scomodi, forse non ti è neanche piaciuto. L'hai fatto forse per pietà, ora penso a te e mi agito. Ora spero che ti rincontrerò in un lungo e folle appresso. Grazie a tutti. Io francamente farei un saluto a Gabriella che è appena arrivata, ma più che altro per il coraggio che ogni cosa che pubblichiamo Gabriella sempre là mi piace. Da notare il fatto che solo oggi ha messo una cinquantina di mi piace alle foto, non solo quelle con Emilio, specifichiamo il conflitto di interesse. Tanta, tantissima stima. Interessante, perché le donne funzionano così. Cioè, dicono così, non voglio fare stereotipi, però sì, è così. Comunque, diciamo, E quindi abbiamo fatto questo gioco, si chiama Consente. Voce femminile calda, buonasera, assumiamo giovani, dolce e sexy le mi ho detto, il tuo ruolo è questo qui, tu risponderai al telefono. È un pensiero eccitante, anche se non avrò niente più di 20 centesimi a chiamata. Grazie. Siamo quasi alla fine, vi ringraziamo ancora di essere rimasti fino a questo momento. Devono averci mandato a fare in culo. Ah, è vero. Allora, adesso facciamo. No, allora siamo quasi alla fine, più una canzone che dovevamo fare all'inizio, ma l'ho completamente. Cioè, non l'ho vista. Scusate, raga, non l'ho letta, però dobbiamo fare perché è molto importante per far vedere le nostre doti di sincronizzazione d'insieme, ok? Quindi un applauso alla sincronizzazione di insieme, per favore. Un applauso anche da quelli che stanno dietro. Che, per favore, un applauso a quelli che stanno dietro, ragazzi. Un applauso da quelli che stanno dietro a quelli che stanno avanti adesso. Gli state sul cazzo, sappiatelo. Questa è la dimostrazione. The song called Compro, una, tipo... Adesso capisco perché la facciamo sempre all'inizio questa. Scusate, scusate. Senti qua, conclusione. Eppure mi sono operato due volte, e ho tuttora il naso, il setto nasale deviato. Comunque. immobile, scappo tuttora, faccia di qui, ho più paura, il fallimento è la realtà che mangia le mie unghie, le ambizioni svaniscono e mi nascondo nella folla. Compro una TV, compro un TV. È forte in me la tentazione di mandarti un po' tutto a puttane. Il fallimento è la realtà che mangia le mie unghie. Le ambizioni svaniscono e mi nascondo nella folla. Compro un attimo. Il fallimento è la realtà che affronto a piccoli intervalli. Compro una TV. Grazie. Giusto ancora. A lei. Divento vecchio e noioso, pietoso e ridicolo. Vorrei gettarmi nel vuoto e finire distrutto, un rutto e una lacrima. Ah. Ma ora son felice, sono tanto allegro, che bello vivere a lei. Ed ora son felice, son contento e i miei giorni ridono con me. Un silenzio affogare in mare o in un bidet. E poi al supermercato ho preso un litro di vino, una penna e una busta blu, blu. Ed ora son felice, sono tanto allegro, che bello vivere a lei. Ed ora son felice, son contento e i miei giorni ridono con me. Olè! Continuamente affondare. Olè! Senza dormire in mangiare. Olè! Ho preso un litro di vino, una penna e una busta blu. Ed ora ho la testa chiusa nella busta, chissà se mi rimpiangerai. Sono felice, sono tanto allegro, che bello vivere a lei. Ed ora sono felice, sono contento e i miei giorni ridono con me. Grazie a tutti! Lo so ancora, aiutarmi! Ci stai, mi senti? Stanno per ricominciare, però ogni tanto è pure interessante comunque trasmettere qualcosa oltre i miei rutti. No, diciamo che anche loro stanno dimostrando di essere bravissimi. Sono riusciti a coinvolgere la folla, la gente è tutta rivolta verso il palco e diciamo che nessuno sta vedendo da nessun'altra parte che non fosse il palco. È bellissimo, sono d'accordo. Continuo a ringraziare, facciamo ringraziamenti al Ponte Rock che ci ha dato la possibilità di stare qui. Ringraziamo Fabio che ci ha dato la possibilità di avere il tre piedi. Ringraziamo ovviamente Strasilvio che ci ha dato anche la possibilità di poter trasmettere. Lasciamo la parola alla musica. E poi lancio le mie accuse da trentenne e fallito. Aiutami, vi ringrazierò. Indicatemi la via, la seguirò. Decidete voi per me perché me sono rotto il cazzo. Se la vita è un percorso, la mia è un vicolo cieco, un inutile discorso in un deserto senza eco. Ascoltatemi, io vi ascolterò. Se non fossi un caga sotto, sparirei in un momento con un solo grande botto contro un muro di cemento. Ascoltatemi, vi ringrazierò. Indicatemi la via, la seguirò. Decidete voi per me perché me sono l'unica. Sama di bombe, come di evo. Sama di bom bom bom bom bom bom. Abobè, abobè, abobè, yeah. Spiego away to the sabine now. Fino lì non è una holiday. Stava la buona e altro un desastro. Spiego away to the audio. Aiutatemi. Ti ringrazierò, indicatemi la via, la seguirò, decidete voi per me perché me sono rotto il cazzo! Grazie a tutti, questo è il nostro ultimo brano, siamo i Cazzo, lui è Luca Mendola, applauso a Luca Mendola. Lui è Donatello, San Francesco Giorgi. Simone Embrai la batteria. Matteo Gabbianelli. Devo cambiare la voce. Poi un applauso a Emiliano Esposti che sta lì al fonico, cioè alla fonica. Un applauso con anche qualche... Ecco, l'avreste dovuti fare fin dall'inizio questi applausi così. Quindi ora cominciamo il concerto? No, basta. Allora vi ringraziamo ancora e vi salutiamo con questo brano che non è nostro, ma vada ben, non è nostro. Questo è un brano che mette a dura prova le mie capacità fisiche, canore e anche intellettuali. Intellettive. Quindi sappiate che noi vi vogliamo bene, anche se non vi conosciamo. L'importante è stare tranquilli, capito? Non famo che quello deve parlare, deve c'è ragione, quell'altro è quello stronzo, guarda come mi guarda, dai tutti a fanculo. Buoni e cattivi. Quasi. È solo il primo tentativo, ce ne sono altri. Is it? Ah, se la può. Volte mo. Più forte. Girate, voi che lo fate? Continuate a fare yeah, intanto che parlo. Yeah, yeah. Allora, tutti quelli che lo fanno, per favore, giratevi verso loro, coloro che non lo fanno. Quindi, dai, fatelo, fatelo. È divertente sta cosa. Yeah, yeah. Più forte, però. Oh, giratevi, dai, fate i stronzi. Dai, dai, per favore, non sorridete soltanto, dai. Continuate! Yeah, yeah. Ciao, ciao. Sì, però siete in ordine sparso, uno a destra, uno a sinistra, dai. Vabbè, allora rigirate tutti verso di noi, non è riuscita sta cosa, io me ne vado a casa. Pensavo che stavo già a casa, scusate. Tranquilli, tranquilli. Vabbè, non lo so riattare la cosa. To my baby, to the doctor, with a fever but nothing he found. My zombies in the street, they say she had a breakdown. Someone's always trying to love my baby, crying, talking, speeding, lying. Say you just wanna be started something. Say you wanna be started something. You got to be started something. Say you wanna be started something. You got to be started something. Solo, oh, più forte contro il sistema, contro il governo. Contro i soprusi, contro le graziazioni, contro tutti, contro il mondo, contro Briss, contro Brass, contro Flugelmai, contro Hitchmeister, contro Hitchmeister, contro Boo, contro Flea, contro Fla, e adesso basta! When nobody else is talking, then the light up on his shoulders, so we call them out for matter. Someone's always trying to stop my baby crying. Talking, feeling, lying, my baby's lonely time. Più piano. Bravi, ok. Più piano. Più piano. Più piano. Ok, allora. È arrivato sempre il momento quello, no? Che tu sai. Quello in cui ci dobbiamo tutti abbassare. Lo dobbiamo fare per amore del prossimo. Allora, voi che fate yeah, abbassate, raga. Noi facciamo i concerti per fare le foto. Se voi non collaborate, le foto vengono male e sembra che non siamo famosi. Invece noi dobbiamo fare finta ogni volta di essere famosi e ci serve la vostra collaborazione. Vi siete abbassati? Siete abbassati, Lu? Sì? Siete abbassati, ok. Allora, questo è il momento dell'abbassamento. È un momento... Oh! È un momento, diciamo, topico del nostro... Oh, zitti un po'. È un momento topico del nostro concerto. È il momento in cui si vede che l'Italia può cambiare. E tutto questo perché voi vi siete abbassati. Quindi. Ciao, che roba! Oh, mazza che stronzi, oh. Allora, quindi voi non riuscite a fare due cose insieme. Cioè, o vi abbassate o cantate. Invece dobbiamo dimostrare a questo governo che noi siamo in grado di muoverci e anche parlare all'occorrenza. Ok. Ciao, che roba! Piano. Ok. Dobbiamo cominciare piano e poi... Ma non mi siete alzati, vero? Ok, grazie. Allora, dai che questa è quasi finita, è finito il concerto. Vado, eh? Ciao, ciao, che roba! Ciao, che roba! Ciao! Senza voce, no? Allora, il gioco è questo. Io faccio una voce e voi dovete rispondere a tono, se no siete dei pezzi di... merda. E quindi... Ciao, ciao, che roba! Oh, no, no, c'è distrazione qui, eh? Dai, è finita. No, no, no! Non lo fare! Aspetta! Grazie. Ciao, che roba? Ciao, che roba? Stuck in me. Benisto. Ciao. Sì, c'ho ragione. Ciao. Ah! Ciao. sapere che io sono stato in Giappone un giorno. No, che è stata qua? Pensavo che è stata Lady Gaga proprio. No, no, qua ci vuole l'amore, eh? Allora, noi siamo stati in Giappone. In Giappone ho visto una ringa elettorale, ragazzi. La ringa elettorale in Giappone è una figata. Perché a un certo punto, quello che sta sul camioncino incomincia a dire tutte cose. E le, non so se dice dei nomi o dei propositi elettorali, però diceva delle cose e la gente rispondeva. Allora immaginate 500 persone in piazza Shibuya, al centro di Tokyo, che ogni volta questo fa "Otsumare sei tu trovati hai!" Come facevano? Hai! Ok. Otsumare sei hai! Ok. Allora noi vogliamo riportare questo, questa tradizione tokiana, tokiese, giapponese anche in Italia, perché secondo me possiamo dare un messaggio di unità a questa, ok? Vuol dare un messaggio di unità che è, viene direttamente dal Giappone, quindi. Ok. Proviamo a farlo tutti insieme, ragazzi. Ripeto, è sempre il momento al pitur questo, però se voi lo prendete con il giusto spirito, non diventa quello, dai, tutti sulle mani, battiamo per il rock e queste cose qua. No, è un'altra cosa, è una cosa più... Che cazzo sta Dio? Vabbè, vabbè, ti perdono, non ti preoccupare, sta guardando un'altra parte, tra l'altro. Comunque, dai, scusate, ho trovato tutto quanto l'attenzione. Sei del sei! Hai! Più forte! Hai! Ok. Sturmosen! Hai! Kule! Hai! Facciamo l'ultima otto e vaffanculo. Hai! Sei! Quanti? Noi ce ne andiamo, vi ringraziamo ancora, abbiamo molto contenti, grazie, ciao. Ciao a tutti, grazie! Tanto buonasera a tutti. I Cazzo sono stati fantastici, veramente fantastici, ci hanno divertito tantissimo. Adesso ci sarà un grandissimo concerto del Pan del Diavolo, un gruppo siciliano, un duo acustico formato da due chitarre e una batteria. Allora parliamo un altro po', visto che attendiamo il cambio palco tra il primo, tra il gruppo dei Cazzo e i Pan del Diavolo. Facciamo un saluto a Gabriele che è tornata dalle vacanze finalmente. Adesso ci viene a salutare anche lei, che è felicissima di essere qui con noi, soprattutto con me. Ciao a tutti. Brava. Vai, facciamo un'intervista a Gabriella. Com'è stata questa vacanza che hai fatto in questi giorni? Bene, bene, è stata bellissima, però devo dire che è sempre un gran piacere poi tornare a casa, soprattutto se ci sono eventi di questo tipo. E devo dire che i ragazzi sono stati davvero molto bravi, hanno organizzato un gran concertone. Adesso ho appena finito il gruppo I Cazzo, giusto? Ecco, insomma, il nome è un po' tutto un programma, però... però insomma ci sono piaciuti molto. E adesso ci saranno i Pan del Diavolo, giusto? E sono molto, insomma, felice di essere qui con voi. Grazie Gabriella, grazie, grazie, grazie tante davvero. Senza di te questa radio non avrà mai successo. È un po' di parte lui, diciamo così, essendo il ragazzo. Però... mentre aspettiamo, vorremmo ricordare il fotografo ufficiale della nostra radio, Mattia D'Agostini, e i vari componenti del gruppo. Assolutamente, allora io vorrei fare un'intervista. Ragazzi, ragazzi, qua abbiamo un grandissimo numero. Io ho l'onore barra onere di avere il cantante barra frontman del Cazzo barra Guzzo. Io purtroppo sono ignorante, quindi dirò... commento così a freddo. Molto divertente, molto molto molto. Ti è piaciuta questa cosa? Arpino mi piace perché è la seconda volta che veniamo a suonare qui e oggi è stato ancora più figo della prima. Ah, per bacco, addirittura più figo della prima. Beh, sì, sì. Prossime serate facciamo un po' di outing. Domani a Livorno al Joe Surfer Diner o Dinner, non mi si chiama Dinner, mi sa. E poi dopo domani ad Ancarano in provincia di Teramo, la festa della birra. Io avevo una grandissima curiosità, siete venuti in macchina, in furgone, come siete venuti? Abbiamo la Cazzo Mobile. Una cazzo di macchina. C'è una station wagon rumena. Allora, rigorosamente. Allora, che cosa avete ascoltato mentre stavate arrivando ad Arpino? Abbiamo ascoltato le nostre parole perché la radio non c'è. Non c'è nemmeno lo stereo, un CD. L'ho detto, è una macchina, la Dacia, non so se hai mai sentito nominare la Dacia. Ti ho detto tutto, credo, di nome. Vabbè, allora facciamo così, più in soldoni stringiamo. L'ultimo CD discreto che hai sentito e ti è piaciuto e vuoi consigliare agli ascoltatori Collective West Radio? Oltre a Boston, ovviamente. Oddio, aspettami, però voglio impreparato. Il primo disco. L'ultimo che hai ascoltato? Allora, Charlotte Heffley, Grey Will Fade. Ah, così. La chitarrista degli Ash. Mi hai sorpreso, non l'aspettavo. Io ringrazio ovviamente. Saluto tutti gli ascoltatori che ovviamente sono 4-500, non è vero. 4-500? sto dicendo una cazzata grossa come una casa che non ci sta ascoltando nessuno, però noi lavoriamo per il podcast. Vabbè, insomma, ci siamo fatti una chiacchierata tra di noi. Vabbè, è bellissimo. Potevi anche posare il microfono, diciamo. E invece no, guarda, ti ringrazio formalmente. Stringiamo la mano. Grazie mille, cazzo. Ciao, grazie. Vorrei dire, intanto, che poco fa ho contattato... i componenti del gruppo 15MOS, non so quale sia il vero nome a dirla tutta, però i componenti principali sono Mario Bruni, Spinato, e ci hanno chiesto di passare qualcosa nella nostra radio. Noi lo faremo molto volentieri, loro hanno i nostri contatti, qualora volessero potrebbero contattarci e darci una loro demo, qualcosa che vogliono dimostrare al pubblico. Ed ecco qua. Vogliamo lasciare la parola ad un nostro comune ascoltatore di solito, Davide Guido, che in questo giorno invece si ritrova dall'altra parte della radio. Non ho capito la domanda, però del Giappone. Era chiaramente quella la risposta alla domanda che non ho fatto, ma era molto ovvia. Qual è il luogo che vorresti raggiungere tra un po' di tempo? Purtroppo noi non siamo molto bravi ad improvvisare, soprattutto per quanto riguarda i momenti morti come questo, e avendo la mia voce che mi ritorna nelle cuffie è proprio brutta come cosa. Che dici, Emilio? Io dico soltanto che arrivano continuamente birre come nella nostra saletta storica dove ci ubriachiamo tutte le volte che facciamo una diretta. Gabriella non lo sa, ma adesso lo sa che ci ubriachiamo sempre ogni volta che facciamo una diretta. Lo sa anche lei, perché anche lei si ubriaca ascoltandoci ogni volta. Aspetta, una foto. Bravo. Ecco che parte la presentazione del nuovo gruppo Pan del Diavolo. aspettiamo che il tecnico ci dia l'audio. Nel frattempo osserviamo la gente che si accalca verso il palco. Devo dire che è un evento ben riuscito. È la prima volta che mi trovo qua personalmente, devo dire che mi sto divertendo. Emilio, che ne pensi? Qua mi chiedono che ne penso di... Attenzione, attenzione che c'è un problema tecnico anche con il palco e non riesce ad arrivare bene l'audio del concerto. Però adesso noi cerchiamo di intrattenervi in questo momento. Attenzione, c'è Cioletta, ciao Ciola, come va, tutto bene? Attenzione che è arrivato forse l'audio. È arrivato? L'audio purtroppo ancora non c'è, stiamo aspettando Manuel che contatti il fonico. Allora, se l'audio non arriverà, noi racconteremo tutto il concerto, nota per nota. Nota per nota. Facciamo un po' orecchio, quindi. Nota per nota. Per chi ha l'orecchio, vedi, è facile. In nostra compagnia. Molto semplice. Ed in ecco vostra compagnia. L'audio. C'è un lato. Dopo, ragazzi. E la serata giustamente si autofinanzia, quindi grazie a voi è possibile fare una serata, non solo confermare serate come queste per l'anno, gli anni a venire, ma anche serate migliori a seconda di quanto bevete. Quanto bevete, ragazzi? Quanto? Poco. E dai, bevete! Dai, ci sono due stand, birra, cassa birra, birra, birra, birra ovunque, ragazzi, bevete! Bevete perché fa bene, guidate poco, però bevete. Allora, che altro dire? Io direi che un applauso ai cazzo. Dai. Più forte! Siete morti, Arpino, siete morti! Più forte l'applauso! Un applauso anche ai PSP! Un applauso anche ai Wait a Hell in Pain! Io direi, lasciamo spazio ad un gruppo. Sono due persone e direi anche di che io sto male qui sul palco, io sto male, quindi lascio il tempo a loro, lascio il tempo che serve, vi lascio il tempo per ascoltare un'ottima musica, ragazzi, a dopo. Allora, mentre aspettiamo che il palco si cambi e prima che i Pan del Diavolo iniziano la loro esibizione, noi vi ricordiamo che domani sera siamo a Picinisco con il festival, col Festival delle Storie. La foto con Sallusti, chi se la fa? Domanda della settimana e della giornata, della serata. Allora, l'ultima volta abbiamo deciso che la foto con Sallusti ce la saremmo fatta tutti con la faccia schifata, perché nessuno di noi approva quello che dice. Magari domani dirà pure qualcosa di sensato, non lo sappiamo. Allora domani, visto che è tornata Gabriella da tanto lontano, domani la foto con Sallusti se la fa Gabriella. Domani Sallusti con Gabriella e la ragazza anche di Marco. Possiamo fare una foto in tre? Ma guarda, direi che tutti possono partecipare a questa foto con Sallusti, che tutti vogliono fare naturalmente. E anche la foto con Veltroni dovrebbe essere interessante. Gabriella ha detto con Berlusconi. Io faccio la foto con Sallusti solo se posso fargli le corna. Ma quelle ce l'ha già. Pesantissima questa cosa. Comunque, no, facciamo finta di non aver detto niente, perché domani siamo al Festival delle Storie a Picinisco a partire dalle 5. Ricordiamo, l'orario dovrebbe essere quello, il problema è che non lo sappiamo a causa di problemi tecnici, quello che potrebbe accadere. ricordiamo che potete trovare tutti i nostri podcast direttamente sul nostro sito, e i podcast del Festival delle Storie e anche i podcast della serata di quest'oggi, con tutto il concerto dei Cazzo, dei Pan del Diavolo, di PSP e dei Whip. Grazie ancora al Ponte Rock che ci ha dato la possibilità di essere qui. Adesso vi faccio dire due parole all'organizzatore del festival, Ettore. Ciao Ettore. Ciao ragazzi. Vabbè, senza presentazioni, sono Ettore Vozza, uno degli organizzatori e dei soci dell'associazione. Niente, siamo arrivati alla settima edizione. Per quest'anno abbiamo avuto due band di alto livello sul palco. Abbiamo avuto i Cazzo, abbiamo avuto il Pan del Diavolo, e non mi resta che invitarvi alla prossima edizione, perché già ci stiamo pensando. Ovviamente il numero delle persone qui presenti sembra abbastanza alto, quindi se vi fidate di noi e di quello che sentite, il concerto è qui, è figo, la prossima volta vi voglio dal vivo, dai, ciao. Grandi, anzi, se siete a casa e ci ascoltate, venite qui e partecipate a questa grande festa di rock. Allora, ricordiamo invece che il Festival delle Storie finirà fra due giorni, ultimo appuntamento a Casalvieri. E tra gli ospiti importanti mi ricordo Le Iene con Sabrina Nobile e Filippo Roma, e Giorgia Meloni, intervistata dal famoso duo di Un Giorno da Pecora. Ah, Gabriella non lo sapeva? A Casalvieri domani, dopodomani, ci saranno sia Le Iene e poi Un Giorno da Pecora, che intervisteranno Giorgia Meloni. Sono contentissima, soprattutto perché intervisteranno Giorgia Meloni e non vedo l'ora, insomma, di ascoltarla. Guarda, so che ti sei mangiata le mani per quanto riguarda l'intervista a Marco Travaglio. Invece a Marco Travaglio devo dire di sì, anche perché ho un debole per lui, essendo anche un bell'uomo, insomma. Guarda, da uomo dico che è vero, purtroppo io anche mi ci sarei fiondato addosso. Diciamo che l'abbiamo fatto per fare le foto, sembra, senza sembrare, ecco, live la reazione di Gabriella al autografo di Marco Travaglio. E mi batte il cuore. Beh, meno male direi, altrimenti non saresti qui. E allora, un saluto anche a Inglese, che ci ha dato il suo ultimo album per... alla fine ci ha regalato anche un suo album, grandissimo Inglese. Sorano Doc, attenzione, schizzati Sora, non si scherza. Va bene. Quindi ricordiamo, un saluto a Inglese, un saluto a Macioce. Domani saremo lì per il Festival delle Storie a Picinisco con Sallusti, poi dopodomani a Casalvieri con la Meloni, con Le Iene, e chiuderemo tutto con i nostri fedeli fonici. Ricordiamo ai ragazzi del Festival delle Storie che qui questa sera ci hanno portato 6 birre e ci hanno allietato la serata per qualche minuto. Poi vabbè, le altre le abbiamo comprate noi, però un 6 birre ce l'hanno portate. Un 6 birre, ma soprattutto ci hanno dato il badge della radio ufficiale del festival, che devo dire, ecco, ora il fotografo le sta riprendendo. Sono un qualcosa che hanno valorizzato il nostro lavoro. Nel Festival delle Storie vorremmo, speriamo, i prossimi anni di avere una maggiore visibilità, diciamo così. Attualmente, essendo la voce web del festival, stiamo trasmettendo tutti gli eventi tranne naturalmente quello di oggi. E Giada, di anche tu qualcosa, questa è la mia ragazza. Ditemi! Non ho capito assolutamente niente. Io direi birra! Non era la cosa ideale in questo momento, però va bene. Domani Festival delle Storie, dopodomani Festival delle Storie, poi prenderemo una piccola pausa di una quindicina di giorni per riprendere le nostre trasmissioni, per decidere un programma in comune, e abbiamo intenzione di ripartire con qualcosa di diverso, sia che comprenda musica alternativa nascente, di gruppi nascenti, insomma, che non sono ancora stati scoperti, sia che comprenda dibattiti tra di noi. E ora lascio le parole alla musica. sapessi quante volte tu terrai stretti i denti per essere libero. È vero. Ehi, ehi, ehi, ehi, ragazzi, scusate, c'è Igor, il fonico, e mi dice che c'è qualcosa che non va. Che succede? Solo la voce. Ok, e esce solo la voce? Sì, scendi giù e facciamo provare a ritmo tutti gli strumenti. Ok, allora facciamo un check, ragazzi, e poi torniamo. Scusate. Ok, la bassa, ok. Arriva a 40 dB meno. Anche questa qui che sta provando lui, ma arriva a 40 dB meno. Prova, check, check, check, sa, prova, prova, okay, check. Aspetta un attimo, lo proviamo a risolvere. I'm gonna go. E rieccoci ancora una volta a causa di problemi tecnici che non riguardano solo noi. Purtroppo hanno avuto dei problemi proprio il gruppo, il Pan del Diavolo, e quindi intervisterei un attimo il nostro fotografo, Mattia. Salve. Che mi dici, Mattia? Come ti trovi a seguirci in questa avventura? Ah, io mi trovo sempre benissimo, però con questa esperienza, con questa esperienza con Collective Waste mi trovo ancora meglio, devo dire la verità, devo dire. Guarda, com'è per te fare una cernita tra tutte le foto che fai? Sinceramente c'è... qua quanto ci dicono, il Pan del Diavolo ha ancora dei problemi. Comunque ce ne stanno, ci sono alcune foto che sono veramente da cestinare, sinceramente. Però no, alcune si salvano. No, ma la cosa che diciamo è più incisiva per quanto riguarda il festival e tutti gli eventi con cui ci segui: le foto attirano molto. No, no, questa è bella, Gabriele, dai. Thank you. sotto la porta di casa. La giornata è calda, tu la stavi aspettando. Niente è definito, io stacco i piedi da terra per restare libero. Ehi, è vero, per restare libero. Saltano campi, fienili e ponti, vanno avanti. crolla e il paese cade a pezzi e scopre noi che ci baciamo, che niente, niente vorresti avere attorno, tranne che la faccia, la testa e le mani, queste mani. Vorremmo sentirvi battere le mani al tempo di scimmia urlatore. Oh, ah, te! Ho perduto la parola e sono cieco. Taglio la mano con una lama. Se non dimagrisci ingrassi su di le mie mosse, per capire quanti passi farò prima di quello del penitente, prima della malattia del libre, di un Cuba libre. Una persona normalmente composta frigge. Mi presti una pistola o notizia rallentatore? Io quando chiudo gli occhi vedo sempre una scimmia urlatore. Ti giuro guardi indietro, tu guardi avanti. Tutti insieme credevate scherzassi. Devo cercare il meglio nelle persone e non mi serve sapere dove lo trovo. Taglio la mano con una lama. Se non l'hai persa tocchi, se l'hai già persa rubi. E quanti passi farai prima della malattia dell'occhio, dello scarabocchio? Una persona normalmente composta frigge. Presti una pistola o notizia rallentatore? Io quando chiudo gli occhi vedo sempre una scimmia urlatore. Tu giura guardi indietro, tu guardi avanti. Tutti insieme credevate scherzassi. Io chiudo gli occhi e vedo sempre una scimmia urlatore. Mi presti una pistola o notizia rallentatore? Ti giuro guardi indietro, tu guardi avanti. Tutti insieme credevate scherzassi. Io chiudo gli occhi. Tu giuro guardi indietro, tu guardi. We'll be right back. mercato per San Giuda. È l'1.33, aveva scarpe scegherate, ho un ritmo di tribù con l'asta del microfono, un milione di fan. Aveva già un eco pazzesco, il suo vestito originale. Cantava alla luna, io avevo 7 anni. Ho incollato un traduttore e ha detto umano con un talento eccezionale. Se starnutiva partiva una rullata di tamburi, se piangeva attaccava Bobby Vinton e suona con Elvis all'inferno, lo chiamavano il Fotti Cristo. Mamma ha ingannato un traduttore, ha detto traduttore ha detto Zolfo brucia, puzza e tagna. quello di sotto. E sarebbe stata pure l'ora, sotto la gonna ci si consola. Il mistero dello specchio sparito e mi sento di colpo ringiovanito. E sarebbe stata pure l'ora, sotto la gonna ci si consola. Sotto la gonna, sotto la gamba, la terra si bagna, poi si infiamma. Lo zolfo brucia, puzza e taglia. Thank you. che al telefono ci fossi tu e non io. Io forse non seguivo la conversazione. Che palle, manco di parola, verbo, rima e sasso mi grida. Del mio colpo accuso solo i rimorsi. Dire che prima ero un drago a due teste, sputavo fuoco da una e dall'altra sputavo sentenze. Che almeno prima capivo la notte e mi ostinavo a dormire di giorno. Era più riservato, quasi naturale, ma com'è bello stare da soli. Coltivero l'ortica, il caffè avvelenato, non faccio mai l'amore e guardo poco dentro gli occhi. Tutti studiano a Bologna, ma io non tratto cose serie. Ora allo specchio una Ligali, poi mi salta il cuore in gola. E poi mi salta il cuore in gola. Dell'orologio mi strofino il viso, che magari cancello il volto. Coltiverò l'ortica, il caffè avvelenato, non faccio mai l'amore e guardo poco dentro gli occhi. Tutti studiano a Bologna, ma io non tratto cose serie. Guarda allo specchio la Ligali, poi mi salta il cuore in gola. E poi mi salta il cuore in gola. E poi mi salta il cuore in gola. E poi mi salta il cuore in gola. Sì, mi è saltato il cuore in gola. Grazie. Say sotto sforzo. Quanto ti prendi sul serio? Hai profondi sguardi intensi per fuochi d'artificio e amici nemici. E qui soffia un vento fortissimo. Qui soffia un vento fortissimo. Tu ti senti sotto sforzo. Quanto ti prendi sul serio? Quando pensi di avere il salto nella competizione succede di tutto. E qui soffia un vento fortissimo. Qui soffia un vento fortissimo. Soffia un vento fortissimo. Qui soffia un vento fortissimo. Faccia sono notti che non dormo, tu hai la faccia a pezzi, sono notti che non dormo, tu hai. Per Gianluca Bartolo alla 12 corde e alla chitarra elettrica, un applauso fortissimo. Ehi! Ehi! Si può fare! ma tutto non si può fare. Grazie. Thank you. il tuo sguardo chiede un sospiro, il mio è davanti. C'è chi passa, lascia un sospiro, il mio è davanti. Hey! Davanti. Il pan del diavolo, Gianluca Bartolo, io sono Alessandro, grazie, ciao!